forse dobbiamo dire, hai avuto anche tu un fiammolo, come c'è una cena poco. Guarda che io sto usando il mio PC, non so dove le fate microfono i torini. Aspetta. Ci mettono lì sul originale e così. Vediamo. Io con il chiometro mi ha avuto a 450, nuovo, e tra l'altro penso che uscivo meglio, ma siccome era troppo complicato per me l'ho subito venduto, ho dato via, ho di Olbia, quindi ecco, ce la faccio, va bene questo, Mike, è normale, poi non riesco a attaccare lo shura, se non l'avrei attaccato qua lo shura, peccato. Andà bene, Meda. Avanti, Carle. Sì, Tonino, ma prima c'era Antonio con Natalino, perché poi mi è arrivata una telefonata e quindi me li sono persi se sono usciti. Se sono ancora in ascolto, li saluto e niente, a fare quattro chiacchiere dopo un bel po' di tempo. Vediamo, Natalino dovrebbe essere ascolto. Natalino. Buonasera. Buona, ciao Marcoli. Ciao a tutti. Ero andato in un altro canale a vedere se c'era ancora l'antenna, stazionaria a posto, però oggi è terribile. Infatti l'ho messo altre due tiranti, ne sono io 5 o 6 tiranti, ma veramente bene, mi si è attaccata anche all'iPhone, non me la fotti nulla. Ho messo quei tassetti tirafondi con una parrocchia, ma mi ha dato matana pure a mezza volta, comunque. Il tassello è il tirante lì, comunque sono troppo perfetto, il palo è secco e zettaro, dritto, perfetto, l'antenna si muove, ma ripeto, già quell'oscillazione lo tiro, ma è giusto che sia così, dai, tanto cosa si può fare, 130 che usano il vento, ma anche 100, il vento qua è 70-80 penso, i punti massimi che ha fatto. Ciao Marco. Un saluto a tutti, dai, stavo ascoltando un po' qua, sono di passaggio tra cucina e camera. Sì, ho sentito che avete nominato la BA27L, sostanzialmente è la Energy, chiamata anche Silver Road in Inghilterra, tanti nomi ha, però è la stessa, grosso modo la stessa antenna, Carlo. Anche il lobo dipendente, perché questa sta dando i numeri, quindi a un certo punto. Ma sto riprendendo questa settimana. Sì, capa, guarda Antonio, se li facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto a questa, una stagnatura ad hoc, gira ti durerà più della Mantova, magari non quanto la Mantova, però è visto, no? Da 2014, grazie a Dio, sempre andata bene, non ha problemi di acqua, di stazionarie. Ok, riprendi Tonino. Vabbè, io mi sa che mi ordino la graziola e buonanotte, mi 50 vedonda, che è quello che fa sempre la Mantova e mi ci abbriscia. Sono indeciso, ma vediamo un po', perché a me la meno me la tengo per riserva, perché per essere un'antenna scalcina, diciamo, perché costa poco, 50 vedonda, puoi attaccare più di 1000 watt, ma io 1000 watt non agio, non mi frega niente, sono liscio, però ho visto che per essere quale essere, questa antenna è buonissima, mi sento tutte le parti, riesco a farmi sentire, capito, per la zona in cui sono, e ho detto, ma qua sarò piccolo, invece, grazie a Dio, già mi sentono bene, è quello l'importante. Avanti Carlo. Sì, già va bene Tonino, non bisogna neanche esagerare con le antenne. Quando trovi la tua, insomma, e poi va bene quella, io non la cambierei, capito? Io quando le cambio vuol dire che c'è o un problema oppure questione di prestazioni, di praticità, e una volta che la metti bene, non si tocca più. La butti giù quando si è rotta, Tony, così bisogna fare. Marco, cosa mi racconti? Il 110 l'hanno ripreso da te. Allora Carlo, sì, allora è dovuta intervenire un'altra impresa, perché con la prima impresa è finita a schifio, imbroglioni, truffatori, si sono fatti dare anticipi per i terrazzini, roba che dovevamo pagare extra 110%, e sono scomparsi, non hanno finito né cappotto, no, il cappotto è praticamente finito, però cioè, sono spariti nel nulla, capito? sa cosa è successo in sostanza? Uno dei due soci si è intestato sul suo conto i soldi dell'impresa, si è fregato dal loro cantiere tutto il fregabile, anche qua si sono fregati il mattone e lame, roba del genere, e quindi per colpa di uno dei soci è diventato latitante. Ma è meglio che non lo trovino, che non lo troviamo, perché a quanto pare non siamo i soli. E quindi è intervenuta un'altra impresa e il general contractor ha detto che cercherà di assorbire, di, per la figura fatta, di ammortizzare tutte le spese che abbiamo affrontato, le perdite che abbiamo dovuto affrontare, capito? Vai Carlo. Attenzione, faccio il dico per un controllino radio veloce qua. 5-9, radio 5, segnale 9, chi è? Eccolo qua, sto trasmettendo qua dalla bassa veronese, qua Radio Panda, con quel piacere. Carlo, vai tu che io lo copio un po' nel QRM. C'è una propagazione folle oggi. Bassa veronese. Veronese, Radio Panda, ho capito. Qua è, questa è la città di Sassari, ci siamo. Siamo quattro operatori, c'è Tonino, Antonello, Marco e io sono Carlo. Vai, la zona di Verona. Ecco qua per la zona di Verona, dai, non ho capito dove state trasmettendo. Città di Sassari, nord Sardegna. Allora, basso veronese, stiamo parlando da Sassari, io sono Tonino Kawasaki, mi senti basso veronese? Confermo, confermo, mi fai un segnale 7 radio 5, 7 radio 5 qua dalla bassa veronese, nord. Ok, ti copiamo abbastanza forte, c'è Diego 8-9 qua, sì. Complimenti, radio super 5. Ok, avanti Carlo. Sì, ti sento anch'io, l'amico della bassa veronese, qua arrivi molto forte, c'è la propagazione che aiuta oggi, riprendi Marco. Marco si è spostato al caffè. Antonello, ci sei? Eia, sono qua. Buonasera, l'amico di Massa Veronese, ben ascoltato. Santiago 910, radio 5, la parte mia qui da Sassari. E vado, fumo un segnale, quindi siamo a posto. Arrivano forti e poi calano di colpo, spariscono, poi rientrano, poi scappisce questa propagazione strana. Evidentemente Tony, il vento va e la toglie, capito, perché ci sono proprio colpi di vento forte, capito. Marco, comunque anche da noi hanno ripreso a lavorare, e, diciamo capofila abbiamo la solita impresa, solo che hanno affidata ad un'altra, una sorta di subappalto hanno dato, no? A un'impresa locale che ci sta facendo i terrazzini che ci dobbiamo pagare noi, perché erano da smantellare, impermeabilizzare, ricostruire, e poi hanno ripreso a fare il tetto, il capotto termico, hanno cambiato i portoncini blindati e dovrebbero finire entro dicembre, così ci hanno detto, però il governo pare che metterà anche un'ulteriore proroga che aveva iniziato i lavori prima, perché comunque i tempi dei rimborsi e dello sblocco dei crediti sta andando ancora a rilento, capito? E quindi dovrebbero fare un'ulteriore proroga per la fine dei lavori. Così mi hanno detto e grosso modo stanno lavorando, hanno ripreso da noi. Speriamo che finiscano entro fine anno, che ci levino questa impalcatura, perché sembriamo in prigione. Riprendi Antonello. Io avevo chiamato Samuolo, guarda, Samuolo a me lo ci dai tutto, ti dai soldi, quello che vuoi, c'è bille, chiamiamo a lui, hai capito? Almeno lui è incazzato, vediamo i soldi suoi, della moglie e della suocera. Comunque Massa Veronese stava sempre chiamando. Avanti l'amico di Verona. Buonasera, segnale 9-10, radio 5 qua a Sassari comunque. Stazione 1 a Palermo, operatore Antonio, insieme a Tonino Kawasaki. E dopodiché Ma Cocondo e Carlo, qua sta piovendo comunque in questo momento. Vento e pioggia. Anche qua dal nord Italia c'è brutto tempo, sempre anche qua nel nord Italia. Comunque erano 7-9 oscillante, radio con la propagazione gigante. Ballone con la ciao ciao. Ciao amico veronese, Massimo Veronese, salutone, ci sentiamo, stare bene, grazie. Ok, avanti Carlo. Sì, buonasera l'amico della Bassa Veronese, alle prossime se va bene, riprendi Antonello. Sono tutto frustato, Antonio. Ti stavo scendendo, ragazzi. Ho sentito, non ti preoccupare, ho messo la moduata però. Franco! Che è? La lascia la tua, non so che ci sia, buonasera. Andiamo bene, andiamo, bubu. Ciao Antonello, ciao Carlo, ciao Antonello, poi non so che ci sia. Lo prendo Carlo. Ciao Franco, ben sentito, buonasera. Così facendo quattro chiacchiere, tanto c'è tempo brutto fuori, piove, tira vento e quindi siamo casalinghi stasera, ho visto. E parlando così c'era l'amico della Bassa Veronese che è entrato con la propagazione, e prima anche qualcun altro si era sentito del nord Italia, e oggi è giornata di propagazione, ogni tanto entrano segnali forti. Riprendi Antone. Eia. Sto fischiando, no? Sì, sto fischiando, non te chiedevo. Allora, andiamo un pochettino. Adesso no. Adesso va bene. Vabbè, però non dovrebbe uscire così il Papa, no? No, no, c'ho problemi d'antenna, hai capito? C'ho problemi d'antenna. Non sapevo cosa diavolo c'ho. E quindi ho problemi d'antenna. Se io... la butto lì, non è che hai perso come si chiama? Porca miseria, la massa, come si dice, la messa a terra, no, no, il cortocircuito, ecco, dell'antenna. È quello che sto pensando, che si è andato lì a fanculo con la bobina, che cazzo, c'è la massa, se la matto va 5 per me l'ha cambiato, se la matto va turbo, no? Mi tocca smontare tutto, la plastica, quello che è, senz'altro è andato in tutti quello, vedrai. Il cortocircuito dove l'avanto va 5 si è ossidato, la stessa identica cosa, solo che all'interno. E quindi è una rogna anche controllarlo, mamma mia, per carità. Franco, riprendi, già lo passo Antonello, sì. Tranquillo, riprendi. Ciao Marco, come per tu le altre cose fatte. Ma certo, non ho seguito questo che c'era sul canale. Beh, riprendo subito che mi allontano un secondo. Riprendi Tony. E cappa, poi quando ci vediamo, fra, se lo sai, quando sei libero, se sei impegnato. Salutami alla 350. Ok. Meda, allora Marco lì, sei entrato? Sì, più o meno, adesso volevo farmi caffè, ce n'è una voglia. E ho sentito qualcuno che chiamava sotto, provate a farlo venire avanti. Ciao, sono Fabio. Comunque Marco, la radio tua è sempre bella e forte, 9 più 30 qua e radio super 5. E vabbè Carlo, non fa testo perché noi siamo a un tiro di schioppo, dai. Eia, ho sentito Fabio, mi pare che ha chiamato, un nome del genere. Avanti chi chiama il nord della Sardegna. Buonasera. No, mi dispiace, non li tiro fuori però, c'è troppo belame. Adesso mi si... Capisco, sono vero, così. Eia. Cazzo, le palle piene, guarda. Sta girando le palle, sale sul palpetto, prende la mazzetta, scende tutto in terra. Aspetta, passo col 2009. comunque dai, riprendo io. Marco, da noi non si sa se porteranno a termine tutto ciò che avevano inserito nei lavori del 110, perché avrebbero dovuto cambiarci anche l'ascensore e mettere i pannelli fotovoltaici sul tetto. Ci auguriamo che finiscano almeno il cappotto termico e che cambino gli infissi, le finestre, porte finestre. I portoni blindati li hanno messi 2 settimane fa, quello l'hanno fatto. Adesso hanno attaccato un altro pezzo di impalcatura, dovrebbero ingabbiare, finire tutto il palazzo con l'impalcatura, perché ne avevamo solo per metà, e pare che questi siano decisi a terminare entro il 31-12, speriamo bene. Carlo, e qua sono cambiate tante cose. Per esempio, noi non abbiamo diritto nemmeno agli infissi, perché non avevamo una pompa di calore o un condizionatore installato, avevamo tutte cose portatili. Quindi, mentre all'inizio erano già venuti tanto tempo fa a misurare 2 volte, erano venuti anche tipi con la roba, allora dice qua una pompa di calore, qua non so cosa, insomma, tutto, hanno cambiato un po' le leggi di queste regolamentazioni durante i lavori. Insomma, noi ci abbiamo solo perso, noi personalmente, come famiglia, ci abbiamo solo perso, perché abbiamo perso soldi, hanno fatto danno, da cavo tagliato alla colonna, col forellino per mettere quei cosi per fissare i pannelli. Abbiamo il terrazzino 1 e a V, più stretto di 10 cm, quindi lo stendino, sai, con la roba già pronta da smattere fuori, non lo puoi più mettere, non ci passa. Insomma, ci abbiamo solo perso, Carlo, a saperlo, non è solo la mia opinione, non l'avremmo fatto. Poi vedrai che i muri ne soffriranno, perché i muri non respirano, con questa plastica, con questo polistirolo l'ho messo fuori, bisognerà reggiare di più, se no l'umidità rimane condensata all'interno, compariranno macchie di muffa o di umidità. Insomma, un pasticcio, Carlo, un pasticcio. Adesso sono ancora così, però spero che finiscano e che vadano via, solo quello, che terminino almeno l'80% di quello che ci avevano promesso, dopodiché si cambia pagina e basta, e vediamo come vanno. Il problema è fissare anche un tassello su quei cosi. Ho visto che da Bricomen adesso li hanno portati anche lì quei tasselli per chi ha la parete col cappotto termico, però non so quanto ci puoi caricare su, che ne so, devi mettere una mensola, io ho paura che non regga, capito? Perché prima c'era il muro, adesso invece trova questo spessore di polistirolo, e quindi il problema è quello lì. Comunque sì, in effetti alla fine ci abbiamo perso sicuramente. Vabbè, pazienza, dai. Riprendi Tonino. Io stavo guardando qua ancora così sul telefonino. Andrà bene, a me mi pare che certe persone vogliono fare cadere 110, ma mi sa che il cappotto manco impermeabile fanno. Adesso ho ancora la baracchina, come va? Meglio o peggio? Adesso sei tu. Visto come attacco carico, immediatamente va in tilt. Senza carico, quindi già c'ho ragione io. Secondo me c'ha ragione Marco. La Mantova ha perso la bobina di cortocircuito. Vabbè, ma no, forse no. Anche perché a me mi segna 1-1, Marco, è sempre. Quindi è strana la cosa. È come se ci avesse mancata di massa. Hai capito? Però sparisce, non lo so, è tutto da vedere. Adesso quando sai, lascerò giù, me la accorgerò subito che diavolo gli ha preso. Ma il tester che cosa c'è? Quando me la accendi controlli col tester e sai subito cosa c'ha l'antenna. Data lì. Io te l'appoggio, data lì. Il problema è che, sai, sono partito adesso col tester. Non ci salgo, manco se mi vitti 5 pizze, quindi adesso le butto giù, bella calma tutto questo periodo qui della perturbazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, le butto tutto in terra e rifaccio tutto nuovo, così almeno sono più tranquillo, almeno so di qual è il problema. Se è come è successo l'altra volta con la Mantova Turbo, che in pratica faceva più o meno la stessa cosa, la rifaccio nuovo e va a farla volare. Non mi costa niente smontarla, pulirla bene, eccetera eccetera. E il fatto che non ci posso salire sopra il vento, o piove o fa vento, o piove o fa vento. Infatti io non ti sto dicendo di salire, quando la butti giù io ti ho detto, perché vuole buttata giù per controllarla, così gli fai tutta la manutenzione. Ciao Natale. Ciao Marcolino. È bello Natale che io non ho stazionarie mie, non hai capito? Stazionarie c'ho uno e uno in trasmissione, e il ricettore c'ho problemi, che sparisce la ricezione del corpo. Quindi è come se non ci avesse la massa, e poi se pratica il PL che non fa contatto con la massa. E allora può darsi che sia quello, può darsi che sia il cortocircuito che manca, col testo ti accorgi di tutto. Una volta la butti giù, solo che Mantova Turbo non avevo piazzato, tre volte mi era giù da varare la mia, alla fine ce l'ho buttata. Lo so, è come la Mantova 5, la stessa cosa, c'ha quel cazzo di cavetto nero che è cortocircuitato alla massa e ti dà problemi. Lo so, c'hai ragione, anche la Mantova 5 mi aveva fatto quella specie di effetto, quindi a un certo punto quando comincia cioè, il problema è trovato quando c'è il carico di watt, te ne accorgi subito. Se sei con 5 watt non te ne accorgi, se vuoi almeno minimo 1000, 800 1000, non te ne accorgi che sale stazionare a 3, 4, ti l'abiti subito. Mi è passata l'acqua, adesso. E quando riuscirai a buttarla giù ti accorgi subito cosa c'ha l'antenna. La Mantova Turbo non ne avrei mai piazzata, tre volte io la mia ne l'ho scesa. Prima mi si è praticato il biatello, un divisore di radiali. Guarda, cosa non mi ha fatto quella, tre volte giù l'ho dovuta buttare. Perché sempre era difettosa, ogni tanto mi faceva il difetto. E allora gli ho messo la Mantova 5 che se ne sta ridendo. 2 mesi quell'antenna c'ha di vita. Dopo 2 mesi me ne sono andato ed è rimasta lì attaccata sopra un palo da 12 metri. Ah, sai cosa faccio? Quando scendo giù prendo una di quelle pentole in acciaio, me la faccio tagliare come si deve e così gli faccio il piano per metterci i radiali. L'attacco del piede, verrà che non si marcisce più con l'antenna, te lo dico io. E grazie, ce la fai in acciaio inossidabile, sì. Io tre volte lucidato, guarda, verniciato, rimesso, ui, la salsedine me ne ha fatto in tutti i colori, perché era l'aria del mare, deve essere, mi ossidava tutte le antenne, capito? La via 27L me ne è sceso il capo in terra perché c'era marcito il PL femmina dell'antenna, dove attacchi il PL, c'era marcito lì e me ne è sceso il capo in terra. E anche a me me l'ha fatto solo una volta, la verità, seconda no. Proprio marcito era, me ne è sceso l'RG213 in terra, dimmi tu. Non ne duravano in campagna antenne, no? Uno o due ne ho cambiato. Che magari la Mantova 5 è buona, io non l'ho controllata, non sono più salito, ed era sopra un palo da 12 metri, due spezzoni da seno, togli il bulloncino e ne scende a 6 metri. E tu quando vuoi andare su, sai cosa fai? Ti porti un baracchino con un alimentatore e provi come funziona l'antenna in campagna, non ci vuole molto, tanto il capo ce l'hai lì buttato, non ti costa niente. Oh, lo sai le antenne che ci sono lì? faccio da caduto in chili, non sono più salito. Sali ci te li prendi, cosa ti costa? Gli ha tirato una mano a smontarle, penso, no, tanto lì non ci fanno un cazzo con le antenne. A un certo punto dici, guarda, ascolta, io voglio staccarmi le antenne, mi dai una mano. Lascia, ce la metti sottoterra e mi dai una mano. Ne stacchi tutto, fanculo e te la porti dove sei tu. O se la vuoi usare, bene, se non la vuoi usare l'antenna te la vendi, non lo so, o te la metti da una parte, non è che la torre antenna è solo tua, la casa di sua è tua, quindi cosa di là fuori? A meno che non te la metti da parte e te li sistemi. No, non me ne frega niente, non ne voglio mettere altre antenne, nulla. C'ho la X300, quella UHF, da voi c'ho il dipolo gatta che fa dai 10 agli 80 metri, tutto lì. No, non mi va, non me ne sbatte nulla. Lascio tutto com'è. Vabbè, lo lascia così, cosa vuoi dire? Finalmente la stazione sono scesa a 1-1, sta piovendo, stazionare a 1 sono scese, se no avrei avuto 1-2, perché sta piovendo, mancanza di massa, adesso è perfetta l'antenna, 1, ma non si muove nemmeno, è scesa proprio a 1, Sì, vabbè, evidentemente c'è qualche falso contatto, o in quel cavo che fa massa, oppure il PL proprio che non fa massa nel piattello. Tondo, avanti Marco, fai girare che vedi tu che mi hai chiamato un secondo, Simona. Sì Antonio, guarda, ero al telefono ma ho copiato lo stesso. Naturalmente tu accertati tra spezzoncini che siano tutti a posto, possibilmente usa l'antenna diretta alla radio, senza nemmeno rosmetri, diretta alla radio, perché era successo a me, mi pare anche da Palino era successo, che c'era problemi una volta di sezione, poi ho scoperto certi spinotti, soprattutto questi PL, come stavate dicendo prima, questi PL di chicchia con la plastica bianca, sono pietosi, dai, e danno i più strani cose, sintomi, come dire, già avete capito. Dai, io faccio una pausa, vado in cucina e mi caffeinizzo, riprendi, non so chi ci è rimasto, Torino ci sei? Chi ci è rimasto? Carlo? Sì, sono ancora qua, già vi stavo ascoltando, niente, anch'io ne approfitto a salutarvi, mi ha fatto piacere sentirvi dopo un bel po', vi saluto perché per me è tardi e devo andare a prendere, recuperare la giovane. Benissimo, ciao Antonello, ciao Tonino se ci sei ancora, altrimenti me lo saluterete, ciao Natalino, ciao Marco, a risentirci alle prossimine, io chiudo, ciao, buonasera a tutti. Buonasera amici, buonasera. Ciao Carlo, ciao, buon proseguo, dai. Marco, avanti. Eia, chi è entrato? Luca? Non riconosciuto, sei Luca o Antonio, con un segnale insolitamente forte. Ciao Carlo, buona serata, buon tutto e ci sentiamo le prossime, dai. Ti sento anche poco, sarendo affarato con altre cose, altro baracchino. Chi è entrato? Avanti. Ciao Marco, sono Luca. Ciao anche a Carlo, però dopo non l'ho sentito. Ciao Marco. Ciao Luca. Hai fatto una voce, Luca, sembravi Antonio. Hai detto Antonio 9:30, non è possibile. Antonio chi? Bombolo. Ehi, questo Luca è cuocuomane. Tu sai. Sì. Ma è vero. E gli altri sparito, allora, Carlo ha chiuso, Torino voi l'ho distratto ma si è assentato. Sì, c'è un bel vento, ho detto tenetevi le antenne, non vi faccio la battuta, tenetevi le corna strette, se no vi volano. Le corna le devi tenere tu che sei cornuto, sì. Io già sono stato cornuto in piccolo, da fidanzato sono stato anche cornuto, sì, l'avevo scoperto. Pure quello ti è capitato, cazzo. C'è qualcuno, ma è quello, boh. troppo, c'è troppo voluto e troppi segnali uno sull'altro, un macello oggi, un delirio di propagazione veramente. Ma è che oggi ho visto la morte in faccia veramente, se no sarei andato su a farmi qualche DX. Ma cosa è successo? Io vi stavo mangiando a mezzogiorno e mi si è incastrato un pezzo di pane in gola e non stavo respirando più, non riuscivo a toglierlo fuori, guarda, ti giuro, morto mi son visto. Mamma mia, attenzione mangiando, non bisogna avere fretta. Ma Concetta l'avrebbe saputo fare la manovra, quella di stringere da dietro il diaframma, cioè lì si mette dietro e stringe il diaframma in modo da farti buttare l'aria fuori e fare l'effetto, già hai capito? A me è successo un riso, ci si è bloccato, non riuscivo più a respirare. Allora, avete parlato in due, non è passato né Luca né Natalino. Natalino, ripeti. La manovra di Emlich, però non ne sa fare. Mi ha tirato solo a colpi alla schiena, però non ha fatto nessun effetto. Allora, stavo dicendo che mi è successo con il riso anche a me. Mi sono visto la morte in faccia. Deve essere brutto, e anche perché se blocca effettivamente, cioè se blocca completamente le vie aeree, cioè pochi secondi e poi svieni, e poi il resto. Ci vuole una persona che aiuti. Vabbè. Che mamma è così, quando mangia mangia come se non ci fosse un domani, proprio si strozza, ha detto mangia piano, non vuole dargli uno schiaffone, non si fa, con i genitori non si fa. E tu la sai fare la manovra di Emlich, perché se mangia così è meglio che la impari. Guarda, bene o male, io l'ho vista in TV, però ci metto poco a imitarla. Basta stringere il diaframma in modo che se, sperando che uno abbia aria ai polmoni, spari fuori il molo, il boccone, capito? Lo so. Cazzo, mi sono visto morto, mi sono visto qua. Non me ne voglio ricordare. Quello perché mangi roba troppo buona e quindi ti viene da strafogarti, da mangiare in fretta, capito? Un manico sessuale, anche lavaggio, stazione vai, prendo la motosega e ne scendo tutto, ragazzi. Tutto, straccia in tutto ex novo metti. Però Natalino, davvero, Massimo Natalino, Antonello, quella prova l'avrei fatta, certo non oggi che c'è vento, pioggia, a vedere se c'è continuità tra il PL che arriva all'antenna e il radiale. Almeno quello, perché tu hai detto mancanza di massa, vedere se, capito, tra il PL e il radiale, vedere se c'è continuità, perché poi lì, dove ci sono i radiali, come sono lì a vitare o c'è quella piastra che tiene? Se c'è la piastra, lì si forma ossido tra piastra e radiale e diventa tutto bianco e non conduce più, hai capito? Adesso c'ho zero stazionario. Stasera che non ha piovuto abbiamo 1 e 2, adesso c'ho 0 stazionarie, sta facendo vento e quell'oscillazione che mi fa da segnale 9 tuo a portarmi a 0 non lo sta facendo per niente, quindi non lo so, è tutto... è butto tutto giù e vediamo un po'. Potrebbe anche essere spostato la bobina, niente di strano, non lo so. E l'antenna cazzo, la mantova è una cosa un po' strana, glielo sai anche tu. È bella, quello che vuoi, pesa 3 kg, più di 3, 4 anni, 5 anni non ti dura, dopodiché deve andare a sistemarla, per forza, perché poi si... in pratica ciò che c'è all'interno che parte la pelle comincia a diventare a sedarsi eccetera eccetera o si stacca eccetera. E succede quello, quindi bisogna, il problema ragazzo è io l'ho già fatto una volta, è un togliaio, piano piano bisogna fare e farlo, vabbè lo farò e vaffanculo, per il momento non cosa ne è scesa, è apposta. Antone, io poi sai cos'è la Mantova, non l'ho mai trattata, tu hai più esperienza di me, hai avuto, ci sei da più tempo, hai usato tante antenne, insomma vedi se si può mettere a posto. No, si può mettere a posto, non è quello il problema, anzi l'avevo messa a posto, se ti ricordi, poi l'avevo data a Stefano. Stefano gli ha durato altri 5 o 6 anni, dopodiché vabbè gli si era spaccato il palo e si era toccata in due l'antenna, ma però funzionava benissimo, uno stazionare, potevi caricare gli watt che volevi, avevo fatto tutto il piano di massa nuovo, fatto bene, radiali nuovi, eccetera, eccetera, capito? L'avevo fatta proprio come si deve l'antenna, l'avevo fatta in campagna, l'avevo fatta, figurati tu quando c'avevo, riuscivo a scendere in campagna che c'era la luce, eccetera, eccetera, ho dovuto scendere lì a farla, perché qua a casa veniva male, quindi qua la farò piano piano, giorno per giorno e con quello che ci vuole, altro non posso fare. Ti farò il basamento giù in acciaio, cercherò, però io te lo farò fare da qualche amico, uguale, il porto il pezzo vecchio me lo faccio fare nuovo, me lo faccio fare in acciaio, in modo da i fori uguali, in modo da non poter cambiare più niente, a me sono tranquillo, non mi devo rompere le palle. Vabbè, andrebbe fatto tutto magari acciaio inox, tutte le parti, a parte lo stilo, vabbè, il mollone, tutto inox sarebbe bello. Vabbè, lo stilo l'avrei fatto in oro, l'avrei placcato in oro 18 calati, se avrei avuto soldi. Forse è stato lì a Dubai, l'avrei fatto fare così. Cioè, tranquillo, la penna sarebbe stata bella, tranquilla, non sarebbe mai successo niente, a meno che non sarebbe salito qualcuno di notte a portarsela via, come avevo fatto una volta, avevo fatto la Detroit in oro, gold, cazzo in oro, placcate in oro, 100 calate, che a uno gli ha sparita dalla macchina. A 80 euro il grammo è l'oro adesso, per chi non lo sa. E appunto, figurati, già te lo ricordi già di quel tipo che ci aveva comprato l'antenna per la macchina, la Detroit Gold, che gli era sparita la base, lo stilo e anche la carica, non so l'altro, gli ha lasciato solo l'attacco del PL, boh, basta, cioè l'attacco di sotto gli ha lasciato. Cosa ti volevo dire, Antonio? E invece, perché non ti piace un dipolo, ce l'hai il motorino magari tu, un control box, se ti piazzavi un dipolo orizzontale e così parlavi con tutti. Per quello che come la direttiva tratta di possessione. Mi metto la direttiva e parlo con un muro, poi parlo. Per parlare con te punto da una parte e parlare con l'altro giro dall'altra. No, non è Gaius Ubuntu. Non è che per parlare con ognuno devi girare l'antenna per forza, no? La punti verso Sassare e parli con tutti, chi più chi meno. La devi puntare solo se fai qualche DX, finché non lo fai arrivare il più forte possibile e poi parli, capito? Si usa così la direttiva, non è che con chiunque tu parli devi girargli la direttiva per forza. La Firenze 2 è l'unica antenna che non va bene, e poi quella che mi hanno fregato, cazzo. La Super Vegibus, quella sì che è una bella antenna. La fanculo a me che quando l'ho data a Giovanna ha suonato immediatamente a staccarla, guarda. E se no un dipolo in verticale ti metti? No. Ho già ordinato con l'antenna, vaffanculo. Va bene così. Basta, avanza. Me la tengo e poi si vedrà, non lo so, se poi me la tengo di riserva, non lo so. vediamo, cioè sono di antenne in giro, non è che non ce ne siano, è pieno, cioè a prendere la gamba è 50 euro, guarda, non ne vale la pena, a un certo punto 70 euro mi viene la mia 27L, 50 ne vuole Fusano dalla gamba, 20 euro in più ne vuole Torino e c'è una 50, a un certo punto mi sono fatti i conti, ho detto dammi quella, va a far culo. E vabbè, pigliate la mia 27L, vulcanizzala bene, anche a me mi ha fatto brutto scherzo, come pioveva stazionaria a fondo scala, mi spianava la cosa, la... C'è Giuseppe! Quindi tanta che c'è lì, tutta... Poi... Tutta mi si pienava d'acqua quella lì, finché non si svuotava non scendevano le stazionarie. Guarda quella di Marco, Marco ce l'ha un sacco di tempo, ce l'ha, l'ho fatta io. Quindi non dirlo a me. Sassami ormai. L'unica cosa che volevo, sai cosa volevo pensare a Marco quando l'ho installata? Lui mi ha detto, dice no, Antone, non voglio che ci mettiamo nient'altro, la voglio così originale. Volevo mettere tre radiali di Grand Prix, figurati tu. E ci avevo in quei periodi che poi li avevo regalati alla Massimiliano Budolfi. Quindi figurati, ma finora sta uscendo bene con l'antenna, non ha mai avuto nessun problema, né nessun ossido, niente. È come se fosse nuovo al negozio con l'antenna che c'è a Marco. Stazionario 1-1, una bomba. Sì, Antone, diciamo che ci è andata bene. È andata bene dove c'è l'antenna. Ci è andata bene dove c'è l'antenna. E ci interrompe quel filippino, come hai detto tu, della bobina. Credo che l'avesse fatto una cosa di Ossi, Antonello. Di Ossi. Cioè lui non l'ha trattata male, eppure si è interrotto da oggi a domani e l'ha dovuta buttare. Cioè mi è andata bene, capito? Non bene, benissimo. Più vabbè, abbiamo fatto il lavoro certo giro di impermeabilizzazione, di tutto l'impermeabilizzabile, dalla stub in cima fino al PL che abiti sotto. Anche la mia era fatta bene, eppure però lì dove c'è la bobina praticamente si chiamava e mi fa dire che su scherzo. Via. Comunque prima c'era anche Coso, c'era Luca, c'era anche Franco California era entrato, non so se siano rientrati, ci siete? No, forse tra ping pong abbiamo quel vizio noi. Perché bisogna lasciare un po' di bianca ogni passaggio, in modo che se c'è qualcuno che vuole entrare lo sentiamo. Spesso tutto profumo di usciato, sono andato in cucina nel fornello, mi sono scelto un mezzo panino. L'importante è che non sia il finale. No, è che cazzo, già ne ho avanti. C'ho il Euro, c'ho con le 4.000 e 3.009, a voglia Baracchi. Che poi che odore ha il finale cotto? Vabbè, di elettronica così bruciata, di valvola bruciata saprà, no? Come l'odore panino, fate uguale. Uguale al pane bruciato. Bravo, senti, questo odore bruciato è come di fumo uscire, è bianco, eppure bianco bianco. Abbiamo spapam. Prosciutto e formaggio. Buono? Buono, buono. Chiedi forchetta buona, già apprezza tutto. Vero Natalino, eh? Aguacciagallaiu. Devi fare un coso lì, una trattoria. C'è Natale. Fermo così. Ma tu il cuoco non l'avevi mai fatto, no? No, ma mi diletto. E via. Anche coso mi si... Anche flipper, intanto mi fa vedere manica reti, roba arrostita, salsicce. Mamma mia, la meningite mi viene quando vedo quelle foto. E io cucino roba più buona di quella. Con me. perché c'è il forno col piatto rotante, mi pare il piatto rotante l'ha realizzato lui, per fare pizze, pane, di tutto, focaccine farcite, mamma mia, mi sta venendo fame di nuovo. Già sono qua Marco, l'avete ascoltato, è troppo, dovevo uscire, capito? Via. Oggi le folate di vento mi facevano sbandare anche con lo scooter. Ma devi vedere certe folate. Ma c'ho la ruota sgonfia, invece no, era proprio il vento. E meno male che non ho il parabrezza. Ancora non l'ho rimesso. Quando il parabrezza è persino pericoloso e ti senti proprio la moto che tira tutta da una parte. C'è la frena. Se c'è il vento contrario non cammina. No, il più pericoloso è di lato, perché bene o male sollecita il parabrezza, che quello è anche grande come il parabrezza, non è quelli piccolini tipo cupolino, è il parabrezza tipo Vespa, e ti butta la moto di lato, non butta giù mai. Forse ci è arrivato dal continente un po' di guanciale, Marco. Dal continente. Sì, ci hanno mandato del guanciale di quello di proprio di Nurcia. Quello Doc, che è d'origine, o dal paese d'origine della carbonara, spero. Eia. Cazzo. Così almeno io e le grigio lì ci facciamo roba di carbonare. E comunque li senti, sì, questi segnali di fondo, è tutta una cozzaglia di segnali, segnalini, segnaloni, ecco perché prima non copiavo bene la propagazione, e poi c'è QSB, c'è segnali da arrivare, sono 9, un attimo dopo nel QRM, non passa. Sì, lo so, c'è una propagazione bazzarda adesso. Mamma mia, questa cassa Bluetooth deve avere una batteria da 100 mAh. Ogni mezz'oretta riutilizza e scarica. E vabbè, devo caricare, dai, non posso ascoltare nulla. Vabbè, dai, ci sentiamo Marco, chiudo anch'io che mi faccio un caffè e così poi me ne vado a coricare. Hai già mangiato? Sì, guarda, ho già mangiato e non vedo l'ora di coricarmi perché sono allo stremo proprio oggi. Ehi, vabbè, adesso ti ha molto quell'esperienza lì, già ti rimane il coso, cioè ti rimane perché ti rendi conto quanto sei andato vicino. E come che ci stiano strozzando, una volta dell'impiccato. Via, buon caffè, io lo devo fare prima, fatto ne ho, no. E vabbè, quando comincio così poi non ne faccio, ci fa tardi. Vabbè Natale, da, buon caffè, buon tutto e ci sentiamo. Certo, a quest'ora chiudono tutti anche prima delle 8. D'altronde se rimane così cosa c'è di aprire di roba da fare qua. Però non è che posso fare solo lo sguattero, no? Mi devo anche distrarre, no? Mi sembra ovvio. Fare roba, sono abituato a grattarmi. Guadagnare la sottiglia di tecnica. Aspetta, Antonio, avete parlato in due, ripeti a te. O te vuoi fare su lavoro, che vuoi guadagnare le soldi dei negri, cazzo. A quello qualche giorno è fatto all'acca male, ammazzo la lui, la moglie e la fuggera. Ehi, hai visto gli intrallazzi? Praticamente avevano questa specie di associazione per aiutare, non so se i bambini affamati di quale paese o tribù, invece i soldi si rispendevano in trattamenti di bellezza, spese pazze, capito? E quelli li davano malapena pane e acqua, cioè li tenevano proprio la fame. E vabbè, Somaoro, già questo cognome mi sa di Somaro. Avanti. Una buona sera a tutti, Gianni del Purù. Poi già, sta diventando raro da ascoltare, ti sento sempre meno, vabbè che io entro, anch'io entro sempre meno. E poi l'altro giorno dice la mattina è risparito di botto. alla radio, ma non è che c'è ancora quei fenomeni tipo capogiri? No, ragazzi, lo so, mi sono passati, grazie a Dio. Non ne ho più, Marco. Sicuramente era anche quella cervicale, non lo so. Ehi, per esempio, va bene, nel mio caso lo so che è la cervicale. Infatti certi giorni sono brutti, quando ti alzi dal letto, boh, così dal nulla mi mantengo, ti hai capito, no? Ti viene da appoggiarti da gran parte di qualcosa. E prima c'era un po' di gente, adesso sono tutti chiusi perché sanno cose più importanti da fare, là. Natalino è andato a prendersi il caffè, io volevo fare lo stesso, ma vabbè. No, è fatto bene, buonasera. No, io già sto entrando. Senti, ma cos'è, così? Sono ancora sul canale 12, perché qua non ho trovato nessuno e ho girato sul 12, poi sicuramente sono entrati, ma oramai ero lì, sono rimasto lì. Cappa. Ehi, avete parlato ancora in due. Vai Antonello per i saluti a Gianni che è entrato. Ehi, ciao Gianni, ben sentito. C'è qualcuno che è sotto di te, avanti, chi è? Si può fare il brecco, è una cosa, è di tacchi. Ciao Antonio, ciao Antonio. Mi hai sentito, come va? Gianni, ma cos'è, è così? Sei tu che non c'è detto veloce, caro mio, sei troppo lento. Poi mi sono già preso sotto o sopra e sopra. Ciao, ben entrato. E guarda, Gianni già aveva il dito veloce, poi ha contagiato anche me. Infatti anche prima l'ho detto, non dobbiamo fare ping pong troppo, perché poi chi c'era prima, certi se ne sono anche andati. Ben entrato. È quello che stavo dicendo anch'io. Andate, bisogna lasciare un attimino di spazio, come sempre. Ma ti hanno imparato a me. Giusto? Ma vai di parlare un massimo. Io te l'appoggio. Io te la spingo. Ma no, va bene per Gianni. Se sapete cosa faccio in mano va su piedi. Oh, se sai cosa c'ho in mano, Salvatore, te ne do un pezzo. Ma non ti racconto. Te ne devi racconto. Ah, lo sai che sento il bambino da abusato su Cucciutelli. Che vento c'è? No, Natalino sicuramente ha roba alimentare in mano. C'ha un ciuffo di salsiccia, peggio per lui. Guardi, non l'ha comprato, fa con il gnocchetto. Ho col gnocchetto. Qua si strafogano tutti in altro che diabete. Quello che stavo dicendo anch'io. Ah, Natalino! Cosa va via? Con un biocchetto mi ravvisi? Sì, con un biocchetto, Ha struzzato, no? Il tutore è poco curioso, ne può sapere poco di cosa. Io c'avevo un ciuffo di salsiccia e ti ho detto, se indovini cosa c'ho in mano te ne do un pezzo. Peggio per te, accendi la vita di un pezzo. No, te ne dirà. Otto, a Antonello invece non gli funziona. E ormai cosa è? Se non gli funziona, pone un po' di bagaglia. L'antenna, cos'hai capito? L'antenna, ascolta, mi ho comprato 120 mg di ginseng. Domani mattina mi ho bevuto tutto. Lo sai come ne mango quando faccio la visita medica? Al retto, tutta la mattina. Ma tu non hai detto che c'è tutto il mondo? Sì, dico. Ma non so come sta la mattina, c'è tutto il mondo. Sono proprio sempre giorni. Paus, invasimi. Quando il palloncino è bucato, Antonello, non lo puoi più gonfiare. Sì, si gonfia, cazzo, ogni notte. Con ginseng, cosa ne hai? A parte che ti... c'è la caffeina in mezzo, capito? È un ginseng che quello che c'ha nello spigolo. Devi metterci 120 mg di cosa? Di acqua calda. poi c'è l'infilimento, la polverina, l'ho provato l'altro giorno, cazzo, ero tutta la mattina, cazzo, agitato, cazzo, con l'attrezzo, cazzo, fino a stamattina alle 8. Oh, io capito, oh, sono spaventose le raffiche qua, qua arriva proprio di piattoni dalla parte interna del palazzo, se no sembra che debba scendere tutto, a seconda di come va se ne vuole il cappotto del palazzo, quella porcheria che hanno messo, riprendi Tore. E a Milano è successo? Ho visto foto già, ho visto foto di capotti fatti male, ma addirittura roba non incollata, cioè incollata proprio a sputo, che al primo vento è volata via, quindi sono delinquenti, almeno qua hanno fatto quello che dovevano fare, cioè hanno messo il tassello, la abbondante schiuma, il tassello, almeno quello l'hanno fatto, almeno. Comunque già, ho già, poi contattami perché già hai capito, è finita schifia, no? Quegli imbroglioni dell'impresa, e forse ho paura che risponda al nome che mi avevi fatto, al nome che mi avevi fatto tempo fa, ho paura che si tratti di quelli, però non è colpa di tutti, è colpa di un socio che ha fatto danno, si è intestato e rubato tutto il materiale, poi vabbè ti racconterò. C'è quello lì, lo conosco bene, perché stavo facendo anche a Sassari 2, le stavo facendo delle palazzine. Per carità, è dovuta intervenire un'altra impresa, speriamo che sia, che completi, perché qua devono completare entro il 31-12, se no siamo nella cacca, almeno il 110, quello del statale, poi i lavori privati è un altro conto. Ok, vediamo se c'è ancora, chi è rimasto qua? Luca, c'è ancora? Sì, dopo vado via, sono ancora qua. Dimmi, ti devo lasciare, perché è venuta gente, vi devo lasciare, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao a tutti e anche agli ascoltoni, se mi ascoltate tutti. Già ti ascoltiamo, noi già ti ascoltiamo, buon proseguo, buon tutto, ciao Tore. Ciao Tore, buon proseguimento di serata. Ciao Tore, ci sentiamo le prossime. Ok, ciao a tutti. Anche quegli ascoltami che ascoltano con l'orecchio. Con l'orecchio. Di porco, diceva quello. Le orecchie pelose. Lo so che manca poco a nome, lo so. Però tu hai coglione questo buboni. Manca poco al... al nome, me lo sta ricordando tutti i giorni. E cosa succede il nome? Muoio io, mangiato una bella torta. Compleanno? Sì. Minchia. E quanti anni sono? 60, se ci arrivo, sono me, ma sono prima. Quanti? 60. 6-0? Sì, a per quello vado al centro storico, il giorno prima, dopo uno gli faccio, all'acqua con lo coltello, dico, ascolta, coltellami che io non ho soldi per poter fare la festa di compleanno, ma sapete tu? Ma non so cosa vuol dire all'acqua e alla grande. Non solo, guarda, dice Allah Akbar, esattamente vuol dire Allah è il più grande, cioè non solo è grande, è come se fosse sopra tutti, no, vabbè, ognuno, capito, ognuno dice che il suo Dio è il vero Dio. Dio è grande, vuol dire Allah Akbar, capito, Allah è grande e misericordioso. Però ammazzerà niente con un Kalashnikov. Ascolta, se ce l'ha là grosso, cosa vuol dire? Ehi, a manico di baracqua. Tu dici, a ascolta, a me alla cabala non ne frega niente, c'è la grossa o no alla. Fammelo vedere se ce l'ha come il tuo, beh non accetta che lo taglio. Taglia Pinniru, l'importante che non mi lo taglio in parte. Che poi non è alla, non c'entra niente, sono i fedeli che sono, capito, che sono tagliagole. Poi vabbè, non ne dice il Corano di ammazzare la gente, sono gli imam che interpretano al loro uso e consumo. Eia, oh, anche nella Bibbia c'è scritto c'è un tempo per non so cosa e un tempo per combattere. Poi se leggi il Deuteronomio, un passo che c'è, ti dice se tu credi in Dio, bla bla bla, tante cose, sarai beato, e poi comincia, ma dopo questo ma ci sono.